Da sola su una zattera, bimba viziata, la pacchia è finita. Indossi la tua maschera, incroci le dita. Davanti ad una cattedra, la ruota gira. È passato tanto tempo, ti ho aspettato al varco. È passato tanto tempo, non cazzeggi più al parco. Ti trovi impantanata dentro una risaia perché ti sei imboscata. Il giorno dopo il tuo ragazzo ti ha mollata. Ti hanno bastonata da sola, domenica allo stadio con il sangue nella gola. Ti hanno interrogata lunedì, licenziata lunedì. Non trovi più il codice B. E se ti sposerai, tuo marito andrà puttane lunedì. Mentre lavi il cane in casa lunedì. Farai la coda in posta il lunedì. Per pagare due multe per divieto di sosta lunedì. Cosa sai quando spegni la musica? Cosa sai quando spegni il computer? Il lunedì è una routine. Non vai più nel ristorante in Baby Jean. Tutte le sere pensi a me, ma io non sono qui. Il lunedì cerchi un sì, lunedì, lunedì. Il lunedì non conta più il colore dei capelli. Conta come sei quando ti svegli. Conta come sei senza piercing, tatuaggi, senza anelli. Conta quanto vali, ti tagliano le ali. Camomilla, tizia, ti spaccano gli occhiali. Piove lunedì e conta solo avere gli stivali. Ci rincontreremo ancora fra 20 anni. Ti porterò i fiori al cimitero, tanto parli. Conta solo quando sei sola. Ti accorgi che sei donna se ti muore una persona. Ho fatto guidare tua figlia sulla tangenziale. Mi hanno arrestato, quest'anno niente male. Un lunedì ti ricorderai di me. Mi verrai a cercare e mi farò bidet. Il lunedì adesso fai letti, lavi piatti. Io sono felice mentre schiaffi. Cosa sai quando spegni la musica? Cosa sai quando spegni il computer? Il lunedì è una routine. Non vai più nel ristorante in Baby Jean. Tutte le sere pensi a me, ma io non sono qui. Il lunedì cerchi un sì, lunedì, lunedì. Cosa sai quando spegni la musica? Cosa sai quando spegni il computer? Il lunedì è una routine. Non vai più nel ristorante in Baby Jean. Tutte le sere pensi a me, ma io non sono qui. Il lunedì cerchi un sì, lunedì, lunedì. Ehi puttanella, è un'ora che ti aspetto. Ricarichiamo le pile? Le bolliamo nell'aceto? Ma ti vuoi accendere? Quando ti chiedo usciamo mi rispondi perché? Ma che cazzo, siamo amici, amanti, fidanzati? Pensi che ti cerco solo perché non ho un cazzo da fare, eh? Ma prima o poi anche per te sarà lunedì.